martedì 29 novembre. Intanto i titoli di apertura dei vari quotidiani. Per il Sole 24 Ore, il patto per l'euro spinge le borse, mentre il Corriere della Sera, il progetto per salvare l'euro. L'allarme dell'OCSE, invece l'apertura della Stampa, Italia in recessione nel 2012. Per Repubblica, Unione Europea, subito una manovra da 11 miliardi. Il Giornale, mandiamo fuori la Merkel, questo è il titolo, mentre il Fatto Quotidiano, nuovi sottosegretari, altri conflitti di interessi. Insomma, queste alcune delle aperture dei quotidiani. Come vedete, certo c'è la situazione economica e finanziaria dell'Italia e non solo in primo piano. Prima però vorrei partire dalla lettura di un articolo che troviamo in prima pagina di Repubblica e che racconta una storia che solo su Repubblica viene raccontata nei dettagli. Riguarda Lucio Magri, giornalista, 79 anni, uno dei fondatori del Manifesto. La notizia è stata resa pubblica ieri. Ho deciso di morire, l'addio di Magri ai compagni. È il racconto fatto da Simonetta Fiori della decisione di Lucio Magri di andare in Svizzera, dove esiste un'associazione che si chiama Dignitas, che fa del suicidio assistito, questo è il termine legale, una pratica che in Svizzera è legale, per l'appunto, il suo credo. Ebbene, Lucio Magri, fondatore del Manifesto, uno dei fondatori, ha deciso di finire la propria vita così. E racconta Simonetta Fiori in questo articolo: alla fine la telefonata è arrivata. Sì, tutto finito, ora si rientra in Italia. Le pompe funebri aveva provveduto lo stesso Lucio Magri poco prima di partire per la Svizzera. Era il suo ultimo viaggio, così voleva che fosse. Non ce la faceva morire da solo. Così il suo amico medico lo avrebbe aiutato. Si era raccomandato con gli amici più cari, quelli di una vita, i compagni del Manifesto. Non voglio funerali, per carità, tutte quelle inutili commemorazioni. Ora è finito tutto. La notizia può essere resa pubblica. Lucio Magri, fondatore del Manifesto, protagonista della sinistra eretica, è morto in Svizzera all'età di 79 anni. Morto per sua volontà, perché vivere gli era diventato intollerabile. Magri si è mosso da questa casa a Roma venerdì sera, diretto in Svizzera dal suo amico medico. Non era la prima volta, l'aveva già fatto una volta, forse due, però era sempre tornato, non convinto fino in fondo. Ora invece qualcosa di diverso. Domenica mattina ha rassicurato gli amici: ma no, non preoccupatevi, torno domani. La sera il tono cambia, si fa più affannato, indecifrabile, chissà. Il lunedì mattina appare sereno, lucido, determinato, ha scelto. E dunque il più è fatto, bisogna solo decidere e poi basta chiudere gli occhi. L'ultima telefonata nel pomeriggio, verso le 16, poi il silenzio. E poi racconta Simonetta Fiori di una vita che si era fatta sempre più travagliata dopo la morte della moglie, l'amata Mara, lui che non sapeva neanche usare il bancomat e il cellulare, racconta una giovane amica. Lui che negli ultimi 3 anni era stato accudito da una signora che gli diceva: dai, reagisci, che fai? La badante che aveva seguito anche la moglie: ti lascia andare proprio ora che esce l'edizione inglese del tuo nuovo libro, dai, ripensaci, c'è ancora da fare. Ma lui ne era convinto, non poteva fare più nulla, lucido e razionale fino alla fine. E poi si era spenta la sua stella, così scrive anche nell'ultima lettera ai compagni. Insomma, è una vicenda che riporterà alla luce chiaramente le polemiche, il dibattito su questa scelta di Lucio Magri, che ha scelto appunto di andare in Svizzera. Oggi la notizia è anche in prima pagina del Manifesto, in maniera diversa. È morto Lucio Magri, fondò il Manifesto, lutto, questo in prima pagina. Mentre chiudiamo il giornale ci raggiunge la notizia della morte di Lucio Magri, avvenuta ieri in Svizzera. La vita gli era diventata insopportabile, sia sul piano politico che su quello personale, specialmente dopo la scomparsa della sua compagna. Fondatore del Manifesto, insieme a Rossana Rossanda, Luigi Pintor e Valentino Parlato, la sua storia politica l'aveva raccontata nell'ultimo libro, Il Sarto di Ulm, sottotitolo Una possibile storia del PC. Insomma, questo il racconto, un racconto che non va però nei dettagli della libera scelta di Lucio Magri, appunto, di andare in Svizzera per morire presumo nell'associazione Dignitas, quella del suicidio assistito. Voglio prima della pubblicità dare quest'altra notizia che mi ha colpito sul giornale. È Vittorio Dansegre che ne scrive, è un grande storico israeliano che collabora anche con il giornale per l'appunto. Farsa UNESCO, la Siria ha i diritti umani. Ma come la Siria? Cioè il paese che è stato recentemente anche espulso dalla Lega Araba per le violazioni dei diritti umani? Ebbene sì, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Cultura, l'UNESCO, non è la prima volta che questa organizzazione, organismo finisce nelle polemiche. Il blocco arabo fa eleggere un paese che spara sulla sua gente. Scrive Vittorio Dansegre: carnevale è ancora lontano, ma il fatto che il blocco dei paesi arabi al comitato esecutivo dell'UNESCO abbia eletto la Siria, membro del comitato incaricato di occuparsi dei diritti umani in quell'agenzia, potrebbe diventare la barzelletta dell'anno. Ebbene sì, è così. La farsa dell'UNESCO, la Siria, è stata eletta come paese rappresentante dal blocco arabo per occuparsi all'interno dell'UNESCO dei diritti umani. Avete capito bene. 24 mattino. E allora eccoci qua alle 7:34 minuti. Intanto uno sguardo a quello che succede in Europa, ovviamente per quello che sono i riflessi anche per l'Italia. Beh, intanto le previsioni dell'OCSE non sono positive. L'OCSE vede l'Italia in recessione, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio. Oggi Marco Mussanè a pagina 7 del Sole 24 Ore racconta appunto delle previsioni con l'outlook semestrale dell'OCSE che prevede un andamento negativo pari allo 0,5% per quel che riguarda l'Italia. Nel 2013 ci sarà comunque una crescita debole nell'ordine del 0,5%. Sono soltanto altri 3 i paesi in area negativa l'anno prossimo, insieme all'Italia: il Portogallo meno 3,2%, la Grecia meno 3% e l'Ungheria con meno 0,6%. Tutto questo nonostante ieri le borse abbiano fatto registrare dei dati positivi, questo anche per il patto per l'euro, così almeno titola al Sole 24 Ore. Il ruolo più importante nel giorno in cui Mario Monti tornerà in Europa, questa volta in veste di ministro dell'economia, visto che tiene l'interim, il ruolo principale, ora tutti gli occhi sono puntati sul ruolo della Banca Centrale Europea. Per quel che riguarda il salvataggio dell'euro, ieri Obama ha detto a Van Rompuy e a Barroso: la linea è quella anche americana, questa è la moral suasion che ha fatto Obama, cioè quella di sostenere le banche in difficoltà attraverso prestiti massicci, come fu fatto in America col piano Paulson nel caso del crack di Lehman Brothers. La via d'uscita, titolo al Sole 24 Ore, pagina 4, acquisti massicci della BCE. Racconta Alessandro Merli da Francoforte come lo statuto della Banca Centrale Europea non vieti in realtà questi acquisti massicci, se la motivazione nel perimetro del mandato. Per la maggior parte degli operatori sui mercati finanziari e degli economisti, l'unica strada che rimane percorribile per il salvataggio dell'eurozona è l'intervento su larga scala della Banca Centrale Europea. Dopo la situazione di contagio certificata anche dal capo economista dell'OCSE, Pier Carlo Padoan, l'unica istituzione che può fermare questo è la BCE. E secondo Merli le opzioni sono due per la BCE: gli acquisti su larga scala di titoli dei paesi in difficoltà oppure l'annuncio di un tetto ai rendimenti dei titoli di alcuni paesi. Le questioni che entrambe queste scelte contravverrebbero al mandato della stabilità dei prezzi e al divieto di monetizzare il debito dei membri dell'eurozona. Tuttavia, secondo alcune opinioni legali, lo statuto della banca non proibisce acquisti più massicci per i rendimenti dei titoli di Stato. Certo, il ruolo è questo, la Banca Centrale Europea deve intervenire. Per esempio il Foglio è giorni che spinge su questa soluzione, vale a dire l'idea che la Banca Centrale debba essere in grado di battere moneta per salvare paesi in difficoltà o essere prestatore di ultima istanza dei governi, come bene per la Federal Reserve americana. Chi si oppone a questo è sempre la Germania. La Germania, Angela Merkel, non si capisce se abbia un piano diverso, se a forte della sua stabilità economica rispetto alle difficoltà degli altri paesi tiene duro, tanto che oggi il titolo del giornale di prima pagina è «Mandiamo fuori la Merkel». La Germania in Europa fa solo i suoi comodi e agli altri paesi non resta che isolarla a costo di escluderla dall'euro. Questa è la ricetta del giornale, ma anche il Foglio, in un commento di prima pagina dal titolo «L'euro contagio ora sa di recessione», in questo commento si legge: tra riforme dei trattati per l'eurozona e piani di salvataggio del club della AAA, la questione centrale rimane come creare le condizioni perché la BCE si possa impegnare in modo più esplicito nella crisi, così spiega il Foglio un alto diplomatico europeo. La Germania è sempre più isolata, è ormai quasi l'unica a opporsi a una trasformazione della BCE in una federal europea. Nei fine settimana Finlandia e Austria hanno rotto i ranghi dell'ortodossia monetaria del Nord e quindi rimane solo la Germania a dire no. La BCE che fa? Beh, la BCE, secondo questo articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, pagina 5, la BCE attende. Attende intanto le misure di Mario Monti e del suo governo, le misure che forse oggi verranno prospettate in maniera dettagliata. Ovviamente non a noi, cioè noi il 5 dicembre, questa è la data identificata dal governo, ma verranno dettagliate all'Unione Europea quando oggi Monti andrà anche presenterà le misure a cui lavora il governo come ministro degli esteri all'Eurogruppo dei ministri finanziari. In Italia arriveranno solo lunedì prossimo, scrive Federico Fubini. La BCE vuole vedere chiaro nelle misure prima di discutere formalmente qualsiasi nuova iniziativa a favore dell'Italia, anche perché Mario Draghi non che dubiti di Monti, scrive il Corriere, ma molti nel Consiglio della Banca sono già sentiti traditi dall'Italia quando Berlusconi tirò i remi in barca dopo i primi interventi dell'Eurotower in agosto. E allora, come dire, prima vogliamo vedere e sapere bene che cosa fate di riforme e poi agiremo. Secondo Repubblica c'è anche un documento di 11 pagine che viene per la verità anche fotografato e messo in prima pagina, a firma Olli Rehn, il commissario che si è occupato in prima persona di quelle che sono le riforme che sta studiando l'Italia per ottenere il pareggio di bilancio del 2013. Ebbene, Rehn, l'articolo 18 va modificato. Questo è il titolo che troviamo in prima pagina dell'articolo di Alberto D'Argenio. Sono 16 pagine per dire che serve subito una manovra da almeno 11 miliardi di euro. E anche per raccomandare di toccare le pensioni e toccare anche l'articolo 18. Questo è il dossier europeo su Roma. A pagina 3 poi i dettagli. Che cosa si chiede in questo dossier? Una lotta all'evasione anche con l'abbassamento dei pagamenti in cash, lo spostamento della tassazione dal reddito ai consumi, quindi e alle proprietà, IVA e ICI. Sulle pensioni si chiede la sospensione dell'indicizzazione automatica degli assegni all'indice nei prezzi. E poi sul lavoro, non entra nello specifico nell'articolo 18, ma il commissario Olli Rehn chiede di eliminare le rigidità, per esempio sostituendo l'attuale sistema di protezione attraverso il reintegro obbligatorio con il pagamento di un'indennità di liquidazione legata allo stipendio percepito. Insomma, questo in questo documento ci chiede l'Unione Europea. Come detto, Monti oggi va a illustrare le riforme, lo farà con una squadra di governo completata. Oh, sono arrivati anche i sottosegretari e i viceministri. Li attendevate con grande trepidazione, lo so, cari ascoltatori. È arrivato anche un nuovo ministro. C'è un nuovo ministro alla funzione pubblica. L'ex capo di gabinetto di Renato Brunetta, Filippo Patroni Griffi, diventa il ministro. Prende il posto di Brunetta. Oh, ci sono alcune sorprese sui nomi. Per esempio all'istruzione c'è anche come sottosegretario Marco Rossi Doria, quello che 57 anni è stato docente elementare da anni, è stato anche nostro ospite varie volte, per anni è stato maestro di strada nei quartieri spagnoli a Napoli. Oppure arriva, e la conferma più importante, come viceministro Vittorio Grilli, viceministro dell'economia. E tra l'altro Vittorio Grilli fa sapere che si taglierà, la sua scelta è stata anche resa difficile perché 500.000 euro è ciò che percepiva come direttore generale del Tesoro e ora scende a 150.000 euro. Insomma, Grilli ha deciso di mettersi in aspettativa, rinuncerà al 70% del suo stipendio come direttore generale del Tesoro per fare il vice ministro. E dunque questo Vittorio Grilli. Ci sono le polemiche, ovviamente, anche per quel che riguarda queste nomine. Beh, intanto Filippo Patroni Griffi, neo ministro alla funzione pubblica, fa due interviste brevi, una al Messaggero e una a Repubblica. Al Messaggero dice: è l'ora di semplificare, non è che posso anticipare nulla, ma certo anche sui tornelli e sui certificati medici è necessaria una maggiore riflessione, ma ripeto, nessuna polemica. Comunque dice, si dice stupito, talmente stupito che a Repubblica dichiara: quando mi ha chiamato Monti ho detto o è il presidente del Consiglio o è Maurizio Crozza. Quando ho capito che era il presidente del Consiglio ho capito che davvero sono stato nominato ministro. Questo lo dice a pagina 6 di Repubblica. Pensavo a uno scherzo, non avrei mai pensato di diventare ministro. E poi dice: mi ha raccomandato molta prudenza nelle dichiarazioni. Questa è la disperazione di noi giornalisti, non avremo mezza dichiarazione da nessun ministro. Prudenza nelle dichiarazioni. Non è proprio la consegna del silenzio, ma sarebbe prematuro anticipare o anche solo discorrere alcunché. Questa è la frase del neo ministro all'istruzione. Il caso invece politico e le polemiche sono per la nomina del sottosegretario D'Andrea, che è stato anche un sottosegretario del governo Prodi, e quindi i partiti di centrodestra dicono: eccolo lì, altro che tecnici, questo è un politico. Gasparri ha detto: io con lui non ci parlerò. Giampaolo D'Andrea ha intervistato tre risposte dalla Stampa, pagina 6, dice: non capisco le ragioni, Gasparri ha detto che come capogruppo non parlerà con me. Io ho un passato politico, è vero, sono stato senatore e sottosegretario del governo Prodi, ma ho saputo svolgere le mie funzioni con distacco e responsabilità istituzionale, insomma. Mentre il Fatto Quotidiano, che apre su questo, dice: eccola qui un'altra bella infornata di consigli, di conflitti di interessi, tanto che il titolo a pagina 3 è governo di interessi, tutto sviscerato il ruolo di tutti questi viceministri, sottosegretari, eccetera. A pagina 2, per esempio, è incredibile per il Fatto, questo è il titolo, incredibile, alla difesa l'uomo di Borgogni. Vale a dire, secondo il Fatto, si tratta di Filippo Milone, neo nominato sottosegretario alla difesa, era consigliere per la politica industriale di Ignazio La Russa al ministero, ex manager del gruppo di Gresti. Milone si trova al centro di una conversazione telefonica di Lorenzo Borgogni, l'ex direttore centrale delle relazioni istituzionali di Finmeccanica, e anche per questa telefonata il PM di Roma Paolo Ielo ha chiesto l'arresto di Borgogni, negato poi dal GIP. Ebbene, secondo il Fatto, con la firma di Sara Nicoli, incredibile, alla difesa messo l'uomo di Borgogni coinvolto nell'inchiesta di Finmeccanica. Sta di fatto che il governo è completato, le poltrone sono 47 e la squadra meno numerosa. Questa è una buona notizia. Meno numerosa nella storia della Seconda Repubblica. Il record era toccato a Prodi, che superò quota 100. Ebbene, ora tra Presidente del Consiglio e tutta la squadra di governo sono 47 rispetto ai 100 e oltre record di Prodi nella Seconda Repubblica. Ci fermiamo, le informazioni sul traffico. Allora, per quel che riguarda la politica, segnalo ancora due notizie. La prima è l'apertura di Libero, che su questo crea un vero e proprio caso. C'è la prova, patto Fini Partito Democratico per rovesciare il governo. È una vicenda che prende spunto, c'è anche in prima pagina sul Giornale, prende spunto da una dichiarazione dell'ex direttore dell'Unità, Concita De Gregorio, che ha fatto una rivelazione, vale a dire questa: un altissimo dirigente del Partito Democratico mi disse che alle regionali del Lazio era meglio che vincesse la Polverini, vale a dire che era il candidato non appoggiato dal Partito Democratico, che appoggiava invece Emma Bonino, ma era meglio, insomma, che perdessimo. Perché? Perché la Polverini era la candidata appoggiata da Gianfranco Fini, o meglio era la donna vicino a Gianfranco Fini, così Gianfranco Fini si sarebbe rafforzato e avrebbe rotto l'alleanza con Silvio Berlusconi. Insomma, così il titola Libero: il PD perse apposta in Lazio per favorire Fini. Così anche sul giornale Parola di Concita: il PD correva per Fini. La De Gregorio rivela il piano alle scorse regionali: favorire la Polverini per rafforzare il terzo polo ai danni della Bonino. Mentre di politica c'è anche Berlusconi, che ieri è stato seguito da tutti i giornali, ha passato praticamente l'intera giornata nell'udienza sul caso Mills a Milano, uscito ha detto ha fatto fatica a rimanere sveglio. Un Berlusconi che ha parlato anche però di politica, non mi ricandiderò, e ha parlato soprattutto dell'alleanza con la Lega, che ormai sembra franata, soprattutto ieri Maroni ha confermato ancora, non mi risulta, l'incontro con Bossi, però Berlusconi dice voglio invece incontrare e incontrerò venerdì Bossi. Insomma, c'è molta maretta nel rapporto, per usare un eufemismo, se non rottura definitiva ormai quasi vicina nel rapporto politico tra Popolo della Libertà e Lega. Vabbè, questo se mi interessa la politica. La cronaca invece campeggia su tutta questa vicenda, che trovate sviscerata su tutti i giornali. È una vicenda incredibile, che peraltro riguarda una vicenda del 2004, un precedente del 2004, di un'infermiera arrestata a Lecco. Infermiere serial killer ha ucciso 7 anziani, così titola il Messaggero, che vi dedica un'intera pagina anche perché la vicenda riguarda Roma. Ebbene, è un ordine d'arresto per Angelo Stazzi, che è già detenuto per omicidio, peraltro in carcere, ma che ora si scopre, secondo l'accusa, avrebbe ucciso, e attenzione, senza alcun movente, 7 anziani. L'angelo della morte, così è già stato definito, l'angelo della morte in clinica, 7 omicidi, mi sento come Dio. Questo è il titolo della Repubblica, e anche La Stampa vi dedica un articolo a pagina 23, un'intera pagina, a firma Grazia Longo, il serial killer con l'insulina. Non state ad arrovellarvi alla ricerca del movente, scrive Grazia Longo, perché drammaticamente non c'è, almeno non in apparenza. Il serial killer stavolta non è il personaggio di una fiction TV, ma un uomo crudele di 66 anni, un infermiere arrestato per aver ammazzato in 10 mesi, tra il gennaio 2009 e l'ottobre 2010, 7 anziani ospiti di una casa di cura e sospettato dell'omicidio di altri 3. Lucido, metodico, spietato. Angelo di nome ma non di fatto, nato la notte di Natale, Angelo Stazzi ha ucciso, secondo l'accusa, per il gusto di uccidere. Forse spinto da un delirio di onnipotenza, se come si evince dalle intercettazioni si sentiva vicino a Dio, convinto di essere un medico mancato, ne so molto più io dei dottori. Prima indeboliva gli anziani con un cocktail di psicofarmaci, poi li annientava con un'iniezione letale di insulina in quantità 50 volte superiore alla norma. Questo, secondo l'accusa, davvero una storia che trovate su tutti i giornali, veramente incredibile. Io vi ricordo che noi parliamo di migrazioni, di migranti, di immigrati. Stop agli immigrati, così ha detto in un documento un funzionario del Ministero del Lavoro, a dire i flussi del 2012 forse è meglio bloccarli, ma ieri c'è stata la presa di posizione del ministro, neo ministro Riccardi, che ha detto non c'è solo l'economia non è tutto. Stiamo verificando i flussi. Questa invece la dichiarazione del neo ministro all'interno Cancellieri. Il punto di partenza da cui parleremo è questo: ci sono circa 280.000 immigrati in Italia che hanno perso il posto di lavoro, e c'è chi dice prima diamo la possibilità a loro di riconquistare il posto di lavoro, non servono altre quote, non servono altre persone. D'altronde, come si dice in questi casi sempre, c'è la crisi. Allora, di questo parleremo dopo il giornale radio.